Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, a tutti buona giornata. Oggi torniamo su un argomento che negli scorsi anni ha occupato molte trasmissioni, sviluppandosi quasi come un'interminabile soap opera. Si tratta della tormentata vicenda della TIA. Che cos'è, direte voi? La tariffa di igiene ambientale, la tassa sui rifiuti che molti italiani hanno pagato per anni con l'aggiunta dell'IVA, e cioè una tassa sulla tassa che ormai è certo però non si può applicare. Lo si può dire ora con maggiore certezza dopo che una sentenza della Corte di Cassazione del 9 marzo scorso ha confermato che la TIA non deve essere assoggettata ad IVA. E allora con questa nuova puntata si riapre la questione che coinvolge i consumatori che vorrebbero chiedere il rimborso, i gestori di questo servizio e naturalmente i comuni ai quali questo introito va, ma anche allo Stato, perché poi l'IVA viene appunto dirottata alle casse dello Stato. Chi deve restituire questi soldi? Come si richiedono? Il gioco vale la candela? Le associazioni dei consumatori si sono mobilitate con impegno da tempo, dal 2009 ad oggi, contro l'applicazione della tassa sulla tassa e anche per ottenere la restituzione dell'IVA già versata, con diverse vittorie. La richiesta di rimborso, dopo gli ultimi sviluppi, sembra ormai non avere più ostacoli. Resta però la difficoltà nel capire chi, come vi ripeto, dovrà restituire questi soldi e come chiederli. Allora oggi Salva Danaio torna a fare il punto della situazione, rispondendo anche alle domande di voi ascoltatori. Molti, quando ieri abbiamo anticipato il contenuto della trasmissione di oggi sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, hanno segnalato: guardate che nel nostro paese, nella nostra comunità, la locale associazione dei consumatori ci ha detto che il gioco non vale la candela. Effettivamente qualche volta si può anche trattare di pochi spiccioli, di pochi euro, però è anche una questione di principio fondamentale. Se magari abbiamo versato insomma per anni, dipende anche da quando il comune di riferimento l'ha applicata, e allora magari si tratta di qualche euro in più e forse vale la pena imbarcarsi in un'operazione di questo tipo. Ma quanto è complicato? Basta rivolgersi ad un'associazione dei consumatori oppure bisogna coinvolgere, non lo so, un giudice di pace, o magari addirittura basta appunto una richiesta al gestore del servizio per riottenerla indietro, questa cifra versata in più? Stamattina ne parleremo, ricostruendo anche tutta la storia, perché come vi ho ricordato prima va avanti da qualche anno, con un nostro, possiamo definirlo anche così, collega del Sole 24 Ore, Luigi Lovecchio, dottore commercialista, esperto in materia fiscale per il quotidiano. Dottor Lovecchio, buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi e grazie. Che rimarrà con noi fino alle 12.45, invece rimarrà con noi per tutta la nostra puntata l'avvocato Carmelo Calì, legale della Confconsumatori. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi e gli ascoltatori. Allora, vi ho già ricordato che potete, questa volta comincio al contrario, animare il nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24, oppure andate solamente a curiosare, mettete il classico mi piace se vi piace come funziona e come noi lo organizziamo, come lo organizza soprattutto Marco Lombardo, che è l'assistente al programma, che non finirò mai di ringraziare. Invece, per interagire sul tema di questa mattina, potete utilizzare i canali tradizionali chiamandoci all'800 24 00 24, scrivendoci al 349 238 6666 oppure all'indirizzo di posta elettronica salvadanaio@radio24.it. Andiamo a vedere la borsa stamattina come si comporta. Una borsa negativa in Europa, c'è un calo di un punto e mezzo a Francoforte e a Milano in questo momento, mentre a Parigi e a Milano. Francoforte perde un po' meno, -1,37%, Londra in calo dello 0,87%. Cosa è successo stamattina? Che ci sono state delle statistiche che hanno dato il conto di come sta andando l'attività manifatturiera nell'Eurozona e quali sono le aspettative per questo comparto dell'Eurozona. Si tratta di una statistica che si chiama PMI Composito dell'Eurozona. Questo dato stamattina, nella sua stima preliminare di marzo, ha fatto sapere che appunto si è attestato il dato a 48,7 punti. Siamo al di sotto delle previsioni degli analisti, ma soprattutto siamo al di sotto dei 50 punti, che è una spartiacque fondamentale, perché se ci troviamo al di sotto significa che l'economia di riferimento è in area di contrazione economica, non di espansione. Stesso dato stamattina era stato diffuso anche dell'economia cinese. Anche il PMI appunto cinese, l'attività manifatturiera, è scesa al livello più basso degli ultimi 4 mesi, anche in questo caso siamo al di sotto dei 50 punti, quindi viene confermata la contrazione economica generale che chiaramente si fa sentire sul mercato azionario, o quantomeno stamattina il mercato ne ha preso spunto per incassare un po' di quanto guadagnato nel rally degli ultimi mesi. Anche Wall Street ieri ha chiuso in negativo e secondo le preaperture Wall Street oggi dovrebbe aprire negativamente. Oggi attendiamo il dato sui sussidi settimanali di disoccupazione, il superindice dell'economia per febbraio, oltre che un'altra serie di trimestrali. A Milano i peggiori titoli sono quasi tutti quelli del settore bancario. Il Banco Popolare perde più di 3 punti, insieme a Finmeccanica, insieme a Prismian, insieme alla Grazia Fiat. E perché di nuovo questa discesa del settore bancario? Intesa fa -2,28, Monte dei Paschi -2, Mediobanca -2,36, la Popolare dell'Emilia Romagna -2,47, Unicredit -1,85, perché è tornato a riallargarsi lo spread fra BTP e Bund. Siamo di nuovo sopra i 300 punti base, stamattina siamo arrivati a 319. Che cosa succede? Che anche la tensione politica italiana, riaccesa dalla contrastata riforma del mercato del lavoro, fa tornare le preoccupazioni sulla stabilità del paese e lo spread, termometro molto in genere puntuale sulle vicissitudini domestiche del nostro paese, appunto lo spread si è riallargato di nuovo. Questo è un po' il quadro della borsa e del mercato di questa mattina. Noi oggi però parliamo di altro, non approfondiamo i temi di mercato, andiamo a parlare invece della tassa sui rifiuti. Non si può pagare una tassa su un'altra tassa. Detta così sembra davvero un'ovvietà, ma è su questo principio che in materia di IVA e tassa sui rifiuti si è accesa una controversia che si trascina ormai da anni. Circa 1200 comuni hanno adottato, in sostituzione della TARSU, la TIA, Tariffa di Igiene Ambientale. Una nuova sigla con cui milioni di italiani hanno iniziato a confrontarsi e sulla quale è stato richiesto anche il pagamento dell'IVA. Da allora sono state molte le richieste di rimborso, dopo che è stata confermata, 3 anni fa dalla Corte Costituzionale, la natura tributaria della TIA, una tassa a tutti gli effetti quindi, che in quanto tale non può essere a sua volta tassata con l'IVA. L'ultima notizia però è del 9 marzo scorso. Dalla Corte di Cassazione è arrivata un'ulteriore conferma sull'illegittimità del tributo, riaprendo la questione dei rimborsi. Una battaglia che nel frattempo era stata già portata avanti, con diverse vittorie, dalle associazioni dei consumatori. Restano però da chiarire alcuni dubbi sulle modalità per richiedere i rimborsi, i tempi di restituzione e su un punto in particolare: chi deve restituire questi arretrati? Un problema non da poco che coinvolge i comuni, i gestori incaricati e naturalmente i consumatori che si preparano a presentare questa richiesta. Come in una lunga telenovela, insomma, si resta sempre con qualche punto interrogativo, in attesa della prossima puntata. Chissà quale sarà, peraltro. 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori che volessero intervenire in diretta. Ma vi leggo già alcuni messaggi che invece sono arrivati, anche se stanno arrivando già delle prenotazioni telefoniche. Da Livorno Mario ci scrive: buongiorno, la fattura TIA 2012 è arrivata, IVATA, ci racconta. E poi un altro ascoltatore che segnala: l'IVA non è una tassa, è un'imposta. Saluti e complimenti per la trasmissione, poi faremo anche chiarezza sulla terminologia che va utilizzata per essere comprensibili nella misura massima che possiamo verso i nostri ascoltatori. E poi altri ascoltatori che invece ci dicono che addirittura in passato, quando si erano accorti della questione che veniva ad essere animata soprattutto dalla battaglia delle associazioni dei consumatori, hanno inoltrato richiesta di rimborso ai gestori dei rispettivi paesi, senza avere però più notizie, perché naturalmente non so se qualcuno che ha rimborsato c'è. Ce lo faremo raccontare dall'avvocato Calì fra un attimo, perché ha seguito direttamente alcune di queste battaglie. Però con Luigi Lovecchio vorrei rifare un po' di cronistoria di questa vicenda. L'ultima puntata nella quale ne abbiamo parlato era una puntata del 27 luglio del 2010, nella nostra trasmissione Soldi e dintorni. Andavamo in onda alle 8:15 del mattino e in quel frangente nella sostanza era stata di nuovo si era di nuovo riparlato di una sentenza della Corte Costituzionale del 2009, la 238, che aveva stabilito che la tariffa è in realtà un tributo, esattamente come la vecchia TARSU, quindi la TIA era equiparabile alla vecchia TARSU e di conseguenza non poteva essere accompagnata dall'IVA. Ma perché i comuni hanno applicato appunto la TIA, dottor Lovecchio, e soprattutto perché hanno deciso, e sulla base di che cosa dal punto di vista legislativo, di applicarci l'IVA sopra? Sì, la questione è complessa, è appunto all'aria di una telenovela. Ad ogni buon conto, le ragioni a monte per cui i comuni hanno deciso di passare alla TIA possono essere le più variegate: da un lato la volontà di affidare un'entrata alla totale amministrazione del gestore del servizio, perché la TIA è sempre stata considerata all'inizio un corrispettivo privatistico e quindi è come se il comune si liberasse di un problema e dicesse al gestore del servizio: questa entrata te la prendi tu, te la gestisci tu, che rendi il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ma ci possono essere anche altre ragioni, una maggiore vicinanza col principio chi inquina paga, insomma le ragioni sono le più variegate. Quindi, per capirci subito in un primo punto, dottor Lovecchio, se lo gestisce il comune il tributo si chiama TARSU, se viene esternalizzata la gestione del tributo si chiama TIA? In origine era così, in origine, prima che arrivasse questa sentenza della Corte Costituzionale che è stata ricordata prima, c'era questa macro distinzione per cui la TARSU in quanto tributo era un'entrata gestita interamente dal comune, la TIA in quanto ritenuta un'entrata di diritto privato era affidata invece al gestore del servizio. E questo è un primo punto. Dopodiché, che cosa è successo? C'è stata questa sentenza che è stata ricordata prima, una sentenza che non è andata giù a molti soggetti. Tra l'altro, una sentenza non è che arrivi così a caso, c'era stato qualcuno o qualche circostanza che aveva sollevato il problema. Perché la Corte Costituzionale ha ritenuto di esprimersi nel merito? La Corte Costituzionale è stata chiamata a dirimere una questione di giurisdizione, cioè il problema che era stato posto alla Corte Costituzionale era quello di stabilire quale giudice fosse competente per le controversie in materia di TIA. La norma all'epoca vigente prevedeva che il giudice competente fosse il giudice tributario, cioè le commissioni tributarie. Allora il quesito che è stato proposto alla Corte era questo: visto che la norma prevede che si debbono occupare delle controversie della TIA i giudici tributari, visto che tu, Corte Costituzionale, in più occasione hai chiarito che i giudici tributari si possono occupare solo di tributi, non credi che qui ci sia un problema di violazione di Costituzione, perché la TIA sembrerebbe un'entrata patrimoniale e quindi dovrebbe andare nella cognizione del giudice ordinario e non del giudice tributario? Questo è il quesito rivolto alla Corte. Quindi Corte non è che c'era qualcuno che aveva sollevato il fatto che c'era un'applicazione di IVA, era stata un'altra questione che aveva portato la vicenda al cospetto della Corte Costituzionale. Esatto. Quindi tutta per caso c'è finita lì. Okay. Tutt'altra questione. Dopodiché, con quella sentenza, la numero 238, la Corte Costituzionale ha detto: primo, la TIA è un tributo e quindi è giusto che se ne occupino i giudici tributari; secondo, siccome è un tributo e quindi, essendo un tributo, non è mai corrispettivo di un servizio, perché la questione, visto che c'è un ascoltatore che ha posto il problema che è stato usato il termine tassa invece che imposta, va proprio affrontata in maniera tecnica: visto che un tributo non è mai corrispettivo di un servizio, non si può applicare l'IVA, perché l'IVA è un'imposta che si applica sul corrispettivo di un servizio. Da qui appunto si è scatenata poi l'ondata di reazione, perché, come dicevo prima, questa sentenza non è andata giù a parecchi. No, anche perché sono, come dire, intanto somme che sono state già incassate, a parte dai gestori di questi servizi, ma soprattutto i gestori hanno poi girato già l'IVA allo Stato, e qualora dovessero essere loro incaricati del rimborso di queste somme, dovrebbero andare poi a richiedere la restituzione a loro volta allo Stato, e figuriamoci quando mai potrebbero rivedere questo denaro, soprattutto in un frangente di questo tipo. Molto banalizzato la questione, Lovecchio, però potrebbe anche esserci questo problema che non non è certo di poco conto. Adesso ritrovo anche le cifre del problema, ma stiamo parlando di una svalangata di milioni di euro, non è che stiamo parlando di noccioline, giusto? Non c'è dubbio, sono molti soldi, ma il problema è che la soluzione che si è tentato di adottare al problema finanziario è stata una soluzione peggiore del male. Io ricordo benissimo che in una delle puntate ultime che abbiamo fatto con Salva Danaio sulla questione TIA, io feci una previsione facilissima, dissi: da qui a qualche mese noi ci ritroveremo punto e a capo. Qual è stata la soluzione? Ed è questo il punto delicato su cui bisogna prestare attenzione quando si chiedono i rimborsi e quant'altro. La soluzione è stata: allora, facciamo una norma che dice espressamente che la TIA è un'entrata patrimoniale, così saltiamo tutto quello che ha detto la Corte Costituzionale. Se non che, come tante volte abbiamo detto, questa norma è stata scritta in modo sbagliato, perché invece che richiamare la TIA 1, cioè la tariffa, la tariffa di igiene ambientale prevista nel cosiddetto decreto Ronchi, un decreto del 1997, decreto legislativo 22 del 1997, il legislatore ha richiamato la TIA 2, che sarebbe la tariffa prevista nel codice dell'ambiente, decreto legislativo 252 del 2006. E quindi il legislatore cosa ha fatto? Ha detto: la TIA 2 è un'entrata patrimoniale, pertanto è soggetta ad IVA, eccetera, eccetera. Per cui, siccome i consumatori hanno versato l'IVA sulla TIA 1, non possono fare richiesta di rimborso. Faccio questa conclusione io, poi mi dirà, dottor Lovecchio, se è giusta o meno. Chiedo ancora un minuto di pazienza all'avvocato Calì e ai molti ascoltatori che sono in attesa, pronti ad intervenire. Andiamo in pubblicità tra poco. Nel frattempo ho trovato la cifra che cercavo prima, la scritta Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, è una tegola da 1 miliardo di euro, quella rilanciata dalla sentenza 3756 dello scorso 9 marzo dalla Corte di Cassazione, che, ricorda Gianni, ha riaperto la strada ai rimborsi dell'IVA pagata negli ultimi anni sulla tariffa di igiene ambientale. Per chiarire la questione, adesso risintetizzo molto, lo stavamo facendo con Luigi Lovecchio, il legislatore ha tentato di disciplinare di nuovo la questione per definire o meno la TIA come entrata patrimoniale o no, e quindi come tale passiva di essere assoggettata all'IVA. Il legislatore però, nel tentativo di riscrivere la norma, ha sbagliato percorso e ha fatto riferimento alla cosiddetta TIA 2 prevista nel codice dell'ambiente, ci diceva Lovecchio, pertanto, non facendo più riferimento alla prima TIA, quella contemplata dal decreto Ronchi del 97, in sostanza cancella la possibilità per i contribuenti di chiederne la restituzione. No, esattamente l'opposto. Ah. Proprio perché non aveva fatto riferimento alla TIA 1, allora i contribuenti, gli studiosi hanno detto: allora la TIA 1 resta un tributo, come ha detto la Corte Costituzionale, non è un'entrata patrimoniale, perché il legislatore ha chiarito che la TIA 2 è un'entrata patrimoniale, non la TIA 1. Pertanto, se la TIA 1 è rimasta un tributo e nessuno ha detto il contrario, l'IVA non c'è. Allora, per superare la lacuna del legislatore, è intervenuta una circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali, che sostanzialmente ha detto: sì, è vero, però siccome la TIA 1 è simile nell'applicazione alla TIA 2, perché si applicano sulla base di criteri identici, siccome il legislatore ha detto che la TIA 2 è un'entrata patrimoniale, implicitamente anche la TIA 1 è un'entrata patrimoniale, e quindi è assoggettata ad IVA. Ed è proprio questo sillogismo che è stato invece completamente cassato dalla Corte di Cassazione, che invece ha detto esattamente l'opposto. Ha detto: la TIA 1 è una cosa, la TIA 2 è un'altra, la TIA 1 è un tributo e nessuno finora ha detto il contrario, perché la Corte Costituzionale lo ha detto la Corte di Cassazione, il legislatore non è proprio intervenuto sulla TIA 1. Ah, ecco, quindi è un tributo 1, e l'IVA non ci va. L'IVA non ci va. Allora, per finire, chiudo rapidamente. A questo punto, a monte, il lavoro pregiudiziale da fare per sapere se si può chiedere il rimborso, perché la situazione è paradossale, è che ci sono comuni che hanno applicato la TIA 1, comuni che hanno applicato la TIA 2. Nei comuni che hanno applicato la TIA 1 Diciamo che la strada per il rimborso è abbastanza spianata, con tutte ovviamente gli accidenti di un percorso giurisdizionale. Guardi, ho un sindaco che è pronto ad intervenire, poi ci facciamo raccontare come intende comportarsi nel suo comune. E quindi, insomma, per la prima tipologia di TIA, la strada è spianata ed è un'eventuale richiesta di rimborso. Per la TIA 2 ce lo possiamo scordare. Per la TIA 2 la strada è in salita, perché per la TIA 2 c'è una norma di legge che ho ricordato prima, che prevede espressamente che questa è un'entrata patrimoniale, quindi soggetta ad IVA. Per avere il rimborso occorrerebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale di questa norma di legge. Lovecchio, per concludere, poi la posso anche lasciare andare un po' prima e concluderò la trasmissione con l'avvocato Calì. Secondo lei nella bolletta c'è scritto se si tratta di una TIA 1 o 2, in modo tale che capiamo se ci conviene imbarcarci nella richiesta di rimborso o meno? Allora, sulle bollette, più che TIA 1 e TIA 2, dovrebbe essere richiamata la norma di riferimento. Se è richiamata l'articolo 49 del decreto legislativo 2297, è il decreto Ronchi e quindi TIA 1. Altrimenti, se non si capisce dalla bolletta, si fa un'istanza al comune, perché il comune, per deliberare il passaggio TIA 1 TIA 2, deve aver per forza adottato una delibera di consiglio comunale. Va bene, la lascio, se vuole può andare, dottor Lovecchio, se vuole rimanere con noi qualche altro minuto ci fa piacere naturalmente, fino a 45 ce la fa? Sì, rimango. Benissimo, grazie. Allora, per coinvolgere l'avvocato Calì vorrei sentire Fabio d'Alessandria. Fabio, buongiorno. Buongiorno dottoressa Rosciani, complimenti per la vostra trasmissione, che fate un servizio veramente ottimo. Grazie. Io volevo chiedere questo, io un paio d'anni fa inoltrai già la richiesta di rimborso dell'IVA pagata sulla TIA al gestore del mio comune di Alessandria. E ora vorrei sapere, loro mi risposero che in automatico, quando avrebbero avuto una sentenza definitiva della Corte, mi avrebbero fatto il rimborso loro automaticamente. Ora, basta che stia fermo e aspetti, oppure devo inoltrare un'altra pratica e richiedere nuovamente al mio comune? Grazie Fabio. Grazie a lei. Sì, sentiamo l'associazione dei consumatori e sentiamo un po' come suggerisce l'avvocato Calì di comportarsi appunto ai contribuenti che ritengono di essere nel diritto di fare questa richiesta. Avvocato, eccoci di nuovo a lei. Sì, e allora diciamo che questo ascoltatore ha già formulato la richiesta di rimborso, a cui non è stato dato nessun seguito da parte dell'amministrazione, quindi non deve inoltrare nessuna ulteriore richiesta, può legittimamente intraprendere da subito un giudizio affinché gli venga rimborsata la somma che ha corrisposto. Secondo lei Fabio riceverà qualcosa? Diciamo spontaneamente, fino ad oggi nessuna amministrazione ha rimborsato spontaneamente, quindi potrebbe magari fare un ulteriore sollecito, ecco, però fino ad oggi non risulta che le amministrazioni abbiano spontaneamente rimborsato. Tutte le missive sono rimaste o prive di riscontro, o se sono state riscontrate, sono state riscontrate con delle lettere in cui le amministrazioni o gli enti ritenevano che non era dovuto il rimborso dell'IVA corrisposto. Ecco perché mi ricordo, avvocato Calì, che voi in passato avevate predisposto sul vostro sito, e forse lo aveva fatto anche qualche altra associazione vostra collega, avevate appunto predisposto sul vostro sito un modulo con il quale invitavate i vostri associati, appunto una volta scaricato, a compilarlo e quindi ad inoltrarlo al gestore o al comune per chiedere appunto questo rimborso. Quante di queste iniziative sono andate a buon fine? Abbiamo fatto migliaia di lettere, però poi diciamo la situazione di incertezza che è stata descritta in maniera perfetta dottor Lovecchio ha un pochettino rallentato quella che era l'intrapresa di giudizio che fino a quando non ci fosse stata qualche pronuncia come quella che adesso è intervenuta da parte della Corte di Cassazione, che potesse darci anche la certezza di poter iniziare delle cause. La lettera è ancora sul sito, anzi è stata aggiornata alla luce della sentenza della Cassazione, quindi chi non avesse per esempio ancora fatto questa richiesta alle amministrazioni può sempre farla, teniamo conto che la prescrizione è decennale e quindi da questo punto di vista si può iniziare. Noi riteniamo che per esempio una delle questioni importanti, condivido totalmente quello che ha esposto il dottor Lovecchio, mi permetto di aggiungere che la sentenza della Cassazione fa anche un'ulteriore precisazione, nel senso che dice espressamente anche il perché la tariffa integrata ambientale, cioè la TIA 2, non è entrato in vigore perché, dice la Cassazione, doveva essere approvato un apposito regolamento attuativo che da parte del Ministero, che a oggi non risulta attuato, quindi dice la Cassazione è certo che questa TIA 2 non è ancora, non può ritenersi ancora entrata in vigore perché il regolamento attuativo non è stato. Da quale ministero, avvocato Calì? Ministero dell'Ambiente o dell'Economia? Praticamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, però deve essere di concerto con il Ministro Estero delle Attività dello Sviluppo Economico, delle Attività Produttive, Sviluppo Economico, oggi, poi tra l'altro ci vuole il parere della Conferenza Stato-Regioni, le rappresentanze qualificate degli interessi, quindi c'è tutta una procedura ben definita per approvare questo regolamento di attuazione, quindi questo è un passo. Quindi è importante perché la Cassazione quindi interviene, secondo quello che ha detto il dottor Lovecchio e secondo questa autorevole precisazione, è intervenuta in maniera specifica rispetto a quello che è stato il tentativo, mi permetterei di dire, del legislatore che ha cercato di fare le pentole ma non i coperchi per cercare di venire incontro a quelle che erano delle esigenze economiche di tanti enti, e quindi la Cassazione non può ritenersi che una sentenza che si pronuncia rispetto a una situazione che era precedente, è una sentenza che interviene rispetto a tutto quello che era il dibattito e l'incertezza interpretativa che era sul tappeto a oggi, quindi una sentenza che è attualissima da questo punto di vista perché, ripeto, supera tutti quelli che erano i dubbi interpretativi e dà una certezza. Infatti il problema è che il legislatore chiaramente nel caso dovesse intervenire interverrebbe facendo un po' male a qualcuno, perché chiaramente se dovesse esprimere un intervento che va a vantaggio dei consumatori è chiaro che se partono questi rimborsi poi qualcuno deve pur pagarli. Massimo da Varese. Allora, Massimo è un sindaco, sindaco Colombo, allora la chiamerò, mi scusi se do il cognome, visto che di un piccolo. Mi dica un po' lei come si è comportato nel suo cammino. Io sono rimasto con la TARSU normale, perché comunque anche un sindaco doveva pensare, cioè, nel modo di vedere. Non ho il livello culturale dei suoi ospiti a livello giuridico. No, lei ce l'ha più alto, nel senso che ha molto senso pratico, perché combatte tutti i giorni con questi problemi. Esatto, per cui... Quindi questo ha prodotto immediatamente un aumento del 20% delle tariffe. Quindi, il fatto di aver esternalizzato e quindi trasformarla in TIA, lei dice già aumenta, ecco, quindi lei ma ha fatto questo. Io faccio parte di una società, siamo in 40.000 abitanti, no? Lonate Ceppino e altri 4 comuni. Però io le tariffe, cioè talmente basse, perché poi bisogna anche ragionare un attimino, di un euro al metro quadro, capisci? Quindi i comuni hanno anche mascherato i deficit delle società facendo questi passaggi da TIA, poi il dottore si dimentica la terza demenziale che è la mista, TARSU-TIA, perché poi in Italia, no, sa, cioè, si figuri. Se non ci complichiamo un po' le cose non siamo contenti. Ecco, quindi uno sa anche il paese in cui vive, con tutto il rispetto, e anticipare i tempi finché non c'è una normativa chiara, poi vengono fuori queste problematiche per l'ente, perché poi il cittadino vede l'ente. No, ma io l'IVA l'ho versata, come nei lavori pubblici l'IVA la verso, a chi la vado a chiedere se mi chiedono rimborsi? È un po' come il canone di depurazione sull'acqua, è 10 anni che se ne parla, ma alla fine, dottoressa, non si è mai capito chi debba rimborsare, se il gestore dell'acqua. Infatti, o il comune. Mi hanno sollevato quindi alcuni consumatori anche questa questione, nella quale ancora non ho il coraggio di affrontare perché è piuttosto complicata. È cattivo, dottoressa, mi perdoni, il cattivo siamo noi, perché comunque il cittadino vede te, però perdere sui rifiuti ti devi impegnare, perché perdere sui rifiuti vuol dire che la società è gestita male, vuol dire che lo so, ci sono altri tipi di ragionamento. Mi verrei da fare una battuta molto scontata: Lonate Ceppino in provincia di Varese non è sicuramente Napoli o un'altra grande città. Avvocato Colombo, grazie, buona giornata. L'ho chiamato avvocato, in realtà era il sindaco di questo paese in provincia di Varese. Ci sono tanti altri ascoltatori che stanno ancora commentando la questione della quale stiamo approfondendo appunto questa mattina. Un ascoltatore dice: ma non sarebbe più semplice stornare sulla nuova bolletta il dovuto in automatico a tutti senza dover fare domanda? Principio sacrosanto, se non fosse che siamo nel nostro paese, in Italia, come giustamente evidenzia sempre lo stesso ascoltatore, e figuriamoci che cosa ci può arrivare in automatico, anche quando ci rendiamo consapevoli che per esempio in fase di conguaglio magari paghiamo molta più acqua, molto più gas. Molto spesso capita, sta capitando alla mia mamma per esempio in questo periodo, che per chiedere magari una restituzione di quanto versato in più dobbiamo andare a segnalare, fare richiesta, poi chiaramente lo storno arriva nelle bollette successive, ma dobbiamo sempre comunque sollecitare. Allora, visto che le associazioni dei consumatori hanno già predisposto molta modulistica, andatela a cercare, poi magari ve la mettiamo anche sul nostro profilo Facebook, sollecitate il gestore del vostro comune e vediamo come si comporta, anche se temo, avvocato Cadì, che molti, come dire, non dico troveranno la scusa, ma diranno attendiamo ancora una chiarezza definitiva, una parola ultima sulla questione per capire come comportarci e se procedere a questi rimborsi, ammettendo che poi gestori e comuni ne abbiano le risorse, perché abbiamo ascoltato anche il caso del sindaco di prima. Ma sì, certo, innanzitutto sulla questione delle risorse noi abbiamo auspicato, proprio perché la questione la riteniamo di una certa rilevanza, così come diceva lei con i dati che ha letto, sia perché c'è anche una certa gravità, oltre che rilevanza dal punto di vista economico naturalmente, noi abbiamo auspicato anche un intervento legislativo che possa consentire a tutte le parti, quindi amministrazioni e cittadini, di poter trovare la giusta ricomposizione di questa vicenda. In attesa di un'eventuale soluzione legislativa abbiamo anche proposto la strada che diceva questo ascoltatore poco fa, cioè stabiliamo un percorso attraverso il quale al cittadino gli viene rimborsato l'importo attraverso dei conguagli nelle future fatture che saranno emesse, ma anche su questo abbiamo registrato sordità. Ma ci auspichiamo che l'atteggiamento possa cambiare anche su questo. In attesa, nel momento in cui la questione è stata a nostro avviso risolta, adesso bisogna aprire una nuova fase nella quale bisogna iniziare i giudizi di rimborso, e quindi coloro che si sentiranno di intraprendere questi giudizi potranno iniziare così. Poi potrebbe consolidarsi una giurisprudenza dei singoli giudici di parte, certo. In questo caso la competenza al rimborso, trattandosi di una ripetizione di indebito, spetta al giudice ordinario. Anche su questo c'è una sentenza alla Cassazione abbastanza chiara, anche se si tratta di un rimborso di IVA, e quindi si tratterebbe di intraprendere dei singoli giudizi attraverso i quali chiedere la ripetizione delle somme indebitamente pagate, e naturalmente man mano che arriveranno le prime pronunce potrebbe svilupparsi anche e consolidarsi anche la possibilità che tanti, se non quasi tutti o tutti, possano ottenere quello che da anni aspettano. Infatti, aspettiamo queste pronunce. Intanto qualche ascoltatore, abbiamo ancora un paio di minuti di tempo, rapidamente. Maria D'Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, Nicoletta, e grazie. Debora, ma Nicoletta è andata in onda prima di me, se lo ricorda? Scusa. Non si preoccupi, però, Maria, ma si figuri, stavo scherzando. Scusa. Voglio allora, molto bene a Nicoletta, per cui per me è lo stesso. Pongo la stessa domanda che ha fatto Fabio D'Alessandria, cioè nel 2010 anch'io ho fatto domanda al consorzio di Bacino Alessandrino per il rimborso dell'IVA. Mi hanno poi risposto in data 11 marzo dicendo che l'ufficio scrivente, in attesa di un intervento con indicazioni precise da parte del legislatore. Stamattina, alla luce di quanto la Corte di Cassazione ha decretato il 9 marzo, ho telefonato appunto al consorzio smaltimento rifiuti. Quindi abbiamo fatto la trasmissione proprio, come dire, al momento giusto, Maria, per certo, lei. Ecco, certo. E il dipendente che mi ha risposto mi ha detto: lei ha fatto domanda, stia tranquilla, noi siamo ancora in attesa dei nostri avvocati, perché noi mi dicono che l'IVA loro l'hanno girata all'ufficio delle entrate e per cui i loro legali stanno valutando la cosa, hanno fatto ricorso e tutte queste belle cose. Mi dice: se sarà da restituire, gliela restituiamo. Ma io non è che mi fido molto quando mi rispondono, perché sa, il verbo vola. Maria, guardi, devo andare a sentire la nostra pillola dell'INPS, fra pochi istanti le faccio subito rispondere dall'avvocato Cadì. Vale il suggerimento che abbiamo dato all'ascoltatore precedente, Maria ha rifatto un sollecito, a questo punto non è che può comunque telefonare tutti i giorni, magari gliene facciamo rifare un altro scritto, in ogni caso prendiamo anche per buono quello che la società ha detto, attendono anche loro di capire come comportarsi formalmente. Avvocato, in 30 secondi se ce la fa. Sì, certamente questa è la strada, con una precisazione: per esempio, se dovessero ulteriormente richiedere le amministrazioni l'IVA, gli utenti possono scegliere o di pagare contestando e quindi chiedendo poi successivamente rimborso, oppure pagare parzialmente togliendo la parte di somma che è relativa all'IVA. Queste potrebbero essere situazioni nuove che si potrebbero andare a creare, quindi è opportuno anche dare delle indicazioni da questo punto di vista. Grazie molto, avvocato Calino, riesco a rispondere a ad Antonio dalla provincia di Napoli e dall'altra Antonio alla provincia di Ferrara, magari vi contatteremo, pure scriveteci ai nostri indirizzi. Noi siamo alla terza delle pillole curate in collaborazione con INPS per spiegare il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni. Questa settimana stiamo andando spiegandovi l'impianto di tutta la nuova riforma e oggi parliamo delle modifiche sulla pensione di vecchiaia. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. La riforma delle pensioni ha modificato l'età della pensione, la cosiddetta pensione di vecchiaia. Perché? Si vive più a lungo e la longevità è una variabile non indifferente per valutare l'entità dell'assegno previdenziale. È la stessa logica di un'assicurazione privata. La durata della prestazione influisce sull'entità. Con l'allungamento della speranza di vita si finirebbe per rischiare di vivere più anni in pensione di quelli trascorsi al lavoro e nei quali sono stati compiuti i necessari risparmi previdenziali. I nuovi requisiti per il pensionamento sono sì legati alla longevità, ma anche a una nuova flessibilità attraverso la cosiddetta pensione anticipata. E con Salva Danaio anche per oggi abbiamo terminato. Domani ci sarà con voi Valeria De Rosa. Noi ritorniamo lunedì e lunedì saremo in diretta dal Vinitaly a Verona. Avvocato Cadì, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, grazie. Grazie anche a Marco Lombardo, Roberto Scaltritti. Arrivederci a tutti e buona giornata.